Se questo mondo fosse una pianura senza fine e navigando verso Oriente potessimo raggiungere luoghi sempre più lontani e scoprire visioni più dolci e più strane di tutte le Cicladi o delle isole del Re Salomone, allora il viaggio avrebbe senso. Ma quando viaggiando non facciamo che inseguire i remoti misteri di cui sogniamo o dare la caccia in modo straziante a quel fantasma demoniaco che prima o poi nuota davanti a ogni cuore umano, allora, quando diamo la caccia a cose del genere, tutto intorno a questo tondo globo, tali cose ci portano all'interno di sterili labirinti, oppure ci lasciano sommersi a metà strada.